Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Bonsoir à tout le monde. Si sente che sono stato a Parigi? Sì, l'accento è hai visto? migliorato, no? Good evening, ladies and gentlemen. Welcome at the sound check. Sì, questo è il sound check, la prova del suono di Radio 24. Come sempre per voi dal Groove Master Studio. Buonasera da Gegè Telesforo e buonasera al nostro immancabile Francesco Tromba, con questo incarico importantissimo che ti ho affidato come selezionatore e responsabile del repertorio in italiano della nostra rubrica musicale. Complimenti. Sì, mi hai dato una bella patata bollente. Ecco, infatti è una bella patata bollente. Hai già ricevuto delle minacce? Ancora no. Non ancora, arriveranno, vedrai. Sì, sì. No, perché tu non selezioni soltanto le cose che ti piacciono, ma selezioni anche il repertorio in italiano che non ti piace e lo critichi pure in diretta radiofonica. Sì, vorrei diventare un po' il Giuseppe Cruciani della musica italiana. Bene, bene, perché Giuseppe Cruciani va molto forte, avrai notato? Sì, però magari un po' meno parolacce. Non un è linguaggio vero, diverso. Le devi dire le parolacce perché quel tipo di linguaggio funziona, tira molto con l'ascolto. Quindi sì, se c'è qualche composizione o qualche artista che in modo particolare non ti è piaciuto, tu ti puoi sfogare liberamente, perché se le dice lui le possiamo dire anche noi. Però non è proprio il mio stile, devo non dire. È il tuo stile, va bene. Purtroppo. Allora, mio caro Francesco Tromba, diamo il via all'appuntamento del nostro sound check andando a verificare che cosa hai selezionato per noi oggi e soprattutto perché. Sì, il primo gruppo che ho scelto si chiamano Cubeta. È nel brano che poi andremo ad ascoltare. Un bel nome internazionale. Sì, in realtà non è, cioè, solo il cognome dei due fondatori. Cubeta. Sì, si chiamano Cubeta. Cubeta, da dove arrivano? Giuseppe e Salvo, Peppe e Salvo. Salvo, siciliani sicuramente. Sì, è vero, indovinato? Della provincia di Siracusa. Oh, che bellezza. Devo dire che dal punto di vista musicale mi piacciono molto perché riescono a mischiare diversi generi insieme, risultano sempre freschi e divertenti. E piacevoli. Sì, sì, molto piacevoli. Che è quello che stai cercando. Stai cercando nel repertorio in italiano un po' di solarità. Sì, per dire basta al cantautorato triste italiano. Mi sembra una bella iniziativa. Perché la tua. Cioè, ogni volta non se ne può che più. Sì, bisogna tagliarsi le vene per ascoltare no, un disco. Noi ci dobbiamo rifare anche allo swing del New Deal, no? Esatto. Quando nella crisi del 29, ne abbiamo parlato quando abbiamo presentato il Roma Jazz Festival, lì negli Stati Uniti la radio americana proponeva lo swing allegro, divertente, ballabile proprio per dare un po' di gioia ai poveri disgraziati americani che stavano perdendo i soldi in banca. Sì, quindi siccome ormai noi li stiamo perdendo da parecchio tempo i soldi, abbiamo già altri motivi per cui essere tristi, tristi, quindi almeno per la musica, ecco, dovremmo essere contenti. Ci siamo capiti. Quindi tu vuoi dare il via al soundcheck di oggi presentandoci la famiglia, o meglio i fratelli Cubeta, i Cubeta Bros. Sì. In questo pezzo, come dicevamo, c'è la partecipazione anche di Mario Venuti. Bravissimo, grande compositore, formidabile. Io mi ricordo Mario giovanissimo, così come ero giovane io quando facevamo Doc in televisione, che venne con i De Novo. Grande formazione siciliana. Questo brano è tratto dall'album del 2012, Vento Meticcio, in cui... Bel titolo, mischia. Vento Meticcio, sì. È tutto un programma. Sì, c'è molta musica comunque mediterranea, etnica. Vabbè, però è del 2012, non è una novità, mi aspettavo da te delle novità. Si chiama però La Novità. Il brano? Sì, il brano si chiama. Allora, facciamo una cosa veloce, ascoltiamo La Novità, questa la prima scelta da parte del nostro Francesco Tromba per il repertorio in italiano del soundcheck con i fratelli Cubeta featuring Mario Venuti. Vedrai che ti piacerà. Bene. arriva dal mare, immagine di una sirena, il busto per metà di una dea, l'altra metà coda di balena, la novità era lei, il paradosso di un'eterna follia, c'è chi desidera i suoi baci da dea, c'è chi desidera la coda per cena. La novità è la guerra fra un poeta e un affamato di vita, facendo a pezzi il sogno di una sirena, il paradosso di un'eterna follia. Non mi è dispiaciuto per niente, lo devo dire, mio caro Francesco, bella scelta. La novità, questo brano tratto da Vento Meticcio, album di qualche anno fa dei fratelli Cubeta, con la partecipazione di Mario Venuti, qui alla prova del suono di Radio 24. Bene, andiamo avanti con il repertorio in italiano. Che cosa hai scelto per noi? Il prossimo artista si chiama Bobo Rondelli. Conosco, bravo autore, bravo compositore. Sì, molto simpatico anche. Molto simpatico, beh, un ragazzo intelligente. Per fare musica bisogna essere intelligente. Eh sì, lui è proprio ironico e al punto giusto anche. Lui suona? Sì, sì. Suona la chitarra. Suona la chitarra. In questa versione l'ascolteremo con l'orchestrino, Bobo Rondelli e l'orchestrino. Che l'orchestrina? È... No. Ah, l'orchestrino, si chiama così la band. Sì. Bene. Questo disco è stato registrato in Toscana, però poi è stato remixato negi Stati Uniti, a New York. Hai capito. Quindi hanno dato un tocco un po' più internazionale. Tocco contemporary R&B? No. Soul? No. Jazz? No. E che hanno fatto, scusami? Cantautorale italiano. Sono andati a finire in America. No, vabbè, forse per qualche partecipazione. Un po' di brass and roll. Ah, diciamo. Ecco, bene, vedi, no. ci deve essere il tocco. Allora, presentaci il brano. Il brano si chiama... Prendimi l'anima. Prendimi l'anima. Lo vedo io, vedi che ho gli occhiali. Non vedevo perché sono lontano dallo schermo. Prendimi l'anima, di che parla? Non me lo ricordo, però ha una gran bella musica. Ma che diavolo di presentazione fai? Vai, Bobo Rondelli con Prendimi l'anima al soundcheck di Radio 24. Prendimi l'anima, che me ne faccio senza di te, è soffio ghiaccio. Prendimi gli occhi, non san vedere, se non ci sei, dov'è il colore? Soundcheck. Il suono della musica. Il nostro Francesco Tromba alla ricerca del repertorio in italiano sorridente e allegro. Questo un po' in controtendenza con il cantautorato triste del nostro paese. Abbiamo ascoltato quindi due produzioni recenti, Fratelli Siciliani, Fratelli Cubeta, con la partecipazione di Mario Venuti. Molto carino questo brano intitolato La Novità, anche se poi non era una novità discograficamente parlando, un brano del 2012. E poi Bobo Rondelli con la sua band, l'Orchestrino, in Prendimi l'Anima. Andiamo avanti, vediamo che cosa hai scelto per noi adesso. Sì, ho scelto un disco di Barbara Enrico. Sì, che è una brava vocalist, anche se poi ha una doppia attività, credo. Sì, lei è laureata in fisioterapia. Oh, che bello. Però fa anche l'attrice teatrale. E non è male andare in tournée con Barbara Enrico, perché durante il soundcheck, fra il soundcheck e il concerto, ti fa un massaggino. Sì, saldo, i potrebbe punti essere da toccare. Saluto Barbara Enrico, che conosco benissimo. Il titolo del disco è Sentimentale ed è un omaggio a Lelio Luttazzi, alla musica. Oh, Lelio, che Luttazzi. Bella cosa, che bella idea ha avuto Barbara. Nella quarta di copertina c'è un ringraziamento da parte della figlia di Lelio Luttazzi, che è scomparso nel 2010. Sì, recentemente comunque. Sì. Comunque fammi dire, meraviglioso musicista, pianista, grandissimi successi anche come conduttore di programmi televisivi negli anni 70, poi legato e quasi dimenticato dall'ambiente artistico italiano per vicende antipatiche. Insomma, fu arrestato insieme a Walter Chiari, credo, non so in che anno, comunque nel 1970, per motivi legati al possesso di sostanze stupefacenti, giusto? Sì, esatto. Poi dal 2005, fra il 2005 e il 2008, è stato un po' recuperato, cioè è stato invitato in televisione, ad esempio al programma di Fiorello, a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, quindi è ritornato un pochettino in auge. Meno male, no? Dopo 30 anni. Infatti sono quasi stati fatti vari tributi anche discografici, e poi adesso c'è questa bella proposta di Barbara Enrico, che quindi recupera il repertorio di Lelio Luttazzi anche con una bella band, mi sembra. Sì, ci sono anche degli artisti che conosci, come Sandro De Ida al sassofono tenore, al clarinetto, Antonio Onorato, Claudio Corvini, Saverio Tasca e molti altri. Quindi anche un bellissimo ensemble di musicisti che rappresentano il jazz italiano per Barbara Enrico in questo tributo a Lelio Luttazzi. Come si intitola l'album? L'album si intitola Sentimentale. E il brano che il nostro Francesco Tromba ha scelto per noi si intitola Eccezionalmente Sì. Barbara Enrico in ricordo di Lelio Luttazzi al soundcheck. Fanciulescamente, misteriosamente, giuro, eccezionalmente, ti ho detto sì. La voce di Barbara Enrico, che ricorda nel suo nuovo album le vicende musicali di Lelio Luttazzi, in questa prima parte del nostro soundcheck dedicata al repertorio in italiano selezionato dal nostro Francesco Tromba. Allora, hai un'ultima chance a tua disposizione, che cosa hai scelto? Ho scelto l'apparizione di Fiorella Mannoia nel disco Tandem, il nuovo disco di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. Sì, disco nuovissimo che appartiene al catalogo jazz, con la partecipazione di Fiorella Mannoia in questo brano intitolato Roma non fa la stupida stasera, un must della canzone italiana, brano scritto da un grandissimo compositore come Armando Trovajoli. Sì, tratto da Rugantino. Esatto, da Rugantino. Allora, una piccola nota, insomma, Fabrizio Bosso è uno dei migliori trombettisti in circolazione sul mercato internazionale, e altrettanto Julian Oliver Mazzariello, che considero uno dei migliori pianisti pianisti incontrati nella mia carriera. E tra l'altro molto divertente che quando aveva 17 anni lo ascoltai insieme a Dario De Ida a Salerno, dove Julian si era trasferito da poco, anzi esattamente a Cava dei Tirreni, con il papà Ferdinando, da Londra, infatti anglo-italiano, mamma inglese, papà italiano di Salerno, Cava dei Tirreni. E quindi chiesi subito a Julian: mio caro amico, ma perché non vieni in tournée con me? Ma io ho 17 anni, mi disse Julian, devi parlare con mio padre. Allora andai da Ferdinando e: signor Mazzariello, ma sto ragazzo deve venire subito a fare i concerti. Ma non ha fatto 18 anni, allora da giovani pure io in tournée. Allora venite tutte e due. E quindi i primi concerti li abbiamo fatti insieme con la famiglia Mazzariello al completo. Poi compì 18 anni il nostro Julian e abbiamo fatto tanti concerti, anche dei bei dischi insieme, e oggi con il talento che si ritrovava allora, poi lo studio, l'applicazione, abnegazione, l'entusiasmo, la passione e la creatività che ha questo formidabile musicista, è diventato uno dei più accreditati a livello internazionale. Auguri quindi a Julian Oliver Mazzariello e a Fabrizio Bosso per questa nuova pubblicazione che ha già scalato i vertici della classifica jazz su iTunes, e poi adesso la partecipazione di Fiorella Mannoia. Sì, quindi sei un talent scout, possiamo dire. Non lo so, mi piacciono i bravi musicisti da sempre. Li riconosci subito. Li riconosco subito, grazie a Dio. E mi sa che ci sono un paio di concerti che possiamo annunciare, sia di Fabrizio Bosso che di Fiorella Mannoia. Esatto, il 6 Fabrizio Bosso sarà al Ferrara Jazz Club, e invece il 5 Fiorella Mannoia si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Eccoli qui, Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello e Fiorella Mannoia in Roma non fa la stupida stasera di Armando Trovajoli, sempre al soundcheck di Radio 24. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fargli di sì. Soundcheck, il suono della musica. La bellissima Lost and Found, brano con il quale si è fatta notare la bellissima Lian Lahavas qui presente al soundcheck di Radio 24. Ci sono dei concerti da vedere, da seguire nel nostro paese nei prossimi giorni. Vediamo cosa ci segnala, come sempre, Francesco Tromba. Sì, questa sera all'Auditorium, no, in realtà domani, scusami. Domani, sì, il prego. 30. Domenica 30, gli Eisturzende Neubauten all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Sempre a Roma, sempre domani sera, Lucas Santana al Monk Club di Roma. Figlio di Carlos Santana? No, ha due T nel cognome, anche se non sembra. Poi Fabi, Gazzè e Silvestri si esibiranno il 3 al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 5 al Palo Olimpico di Torino. Stanno andando benissimo, sold out dappertutto. Dopo la tournée europea stanno facendo. Sono anche sbarcati, sono rientrati in Italia con grandi successi. Elton John, giovedì 4 al Mediolanum Forum di Assago, Mario Venuti, che abbiamo ascoltato prima ai Candelai di Palermo. Sì, bellissimo locale. Paolo Conte, 4, 5, 6 a Roma, al Teatro Sistina. Infine possiamo segnalare anche Greta Panettieri sabato 6 al Palazzo dei Congressi di Roma. Molto bene, allora chiudiamo la prima parte del nostro soundcheck, fra pochissimo l'informazione di Radio 24 con il bassista pluridecorato Stanley Clark. È stato un eccellente contrabbassista di jazz, poi quando ha scoperto il basso elettrico ha dato filo da torcere a tutti, no? Usava un basso chiamato Alembic con un suono molto squillante, grintoso, e comunque questo signore che non lo so, forse sarà arrivato quasi alla settantina, Stanley Clark, sì, più o meno siamo lì. Continua a produrre ottima musica mantenendo uno spirito giovane, e si sente anche in questo brano intitolato I Have Something to Tell You Tonight, ho qualcosa da dirti questa sera. Grandissimo groove, la poesia e il suono di Stanley Clark con il basso elettrico qui al soundcheck di Radio 24. Dopo arriva l'informazione. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Seconda parte del soundcheck di Radio 24 dal Groove Mastery Studio, pronto il nostro Francesco Tromba per segnalarci i concerti più interessanti dei prossimi giorni, magari a Londra, ecco, sì. Una delle mete preferite degli italiani. Sì, devo dire che dopo la scorpacciata del London Jazz Festival c'è un pochettino di stasi, quindi meno live rispetto alle settimane passate. E allora perché dobbiamo andare a Londra? Perché comunque ci sono pochi concerti, però buoni. Ma buoni, vediamo. Domani, il 30, al Royal Festival Hall ci sarà John Grant. Invece mercoledì 3 alla Wembley Arena ci sarà Peter Gabriel. Mamma mia! Sempre alla Wembley Arena ci sarà sabato 6 dicembre Lenny Kravitz. Ecco, bastano Peter Gabriel e Lenny Kravitz per fare il viaggetto a Londra. Sì, soprattutto se con Lenny Kravitz ci sarà anche Trombone Shorty e la sua band. Non lo so, può essere, sì, perché stanno collaborando. Sì, stanno in giro per concerti. Sinceramente insieme. Fra i due andrei a vedere Peter Gabriel. Sì. Lì c'è sempre da imparare. E poi è comunque una garanzia anche dal punto di vista visuale. Eh sì, dello uno spettacolo completo. E infine volevo anche segnalarti a Manchester, sempre nella Gran Bretagna, al Manchester Central Convention Complex, il reverendo Kirk Franklin. No, non me lo dire, c'è cioè Kirk Franklin. Sì, sì, è uno dei miei preferiti. Dicembre. No, da sempre, proprio il mio preferito per il gospel contemporaneo. Tra l'altro ha una storia bellissima. Un film che lui ha raccontato anche in apertura di una famosa tournée, partiva proprio il filmato che raccontava la sua storia, abbandonato dalla mamma ubriaca, alcolista, davanti a casa della nonna, quindi è stato svezzato dalla nonna a pane e gospel, frequentando la chiesa battista dove la nonna si recava tutte le domeniche. È diventato poi col tempo un musicista straordinario, pianista, compositore, autore anche di tutti i testi, producer di tutti i dischi che hanno scalato le classifiche internazionali. Guarda, mi hai provocato, perché quando c'è il concerto del reverendo? E il 5. E allora, guarda, mi voglio inginocchiare e farti ascoltare questo brano che è stato il brano portante di un film intitolato Kingdom Come, e Kirk Franklin, per realizzarlo al meglio, chi ha chiamato? Ha chiamato Jill Scott, la poetessa del New Soul from Philadelphia. Kirk Franklin e Jill Scott in Kingdom Come al soundcheck di Radio 24. Sai che vado a vederlo io, Kirk Franklin a Londra. Sunshine, been looking for a love that I can call mine. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, hai fatto bene a precisare, il concerto di Kirk Franklin non è a Londra ma a Manchester, però noi ci spostiamo idealmente a Londra perché c'è un album che sta per essere pubblicato nei prossimi giorni, credo proprio i primi di dicembre, quindi fra pochissimo. Sì, il 3 dicembre. Il 3 dicembre avremo la possibilità nei negozi di dischi di acquistare London Sessions, questo è il titolo del nuovo album di Mary J. Blige. Sì, si è trasferita appunto a Londra, ha vissuto per un periodo a Londra, come ha dichiarato in diverse interviste, ha cercato di produrre musica come se lei fosse un'artista londinese. E infatti ha utilizzato anche sidemen musicisti inglesi, naturalmente devoti al soul e all'R&B, per realizzare questa nuova pubblicazione. E infatti nel primo brano che vi presentiamo, fra gli autori c'è anche una signorina inglese che si chiama Emily Sandé. Sì, è bravissima, credo sia scozzese, non inglese se non sbaglio. Se ma non tu mi vuoi sempre male. Puntualizzare, troppo. Ma sei fatto così, perché? Io peperoncino sono, calabrese. Sono anche scozzese. Sei un scozzese. Tipo preciso, sei anche tu scozzese. Eh? E allora, Mary J. Blige, che ho visto dal vivo qualche anno fa, due anni fa, proprio a Los Angeles, alla Gibson Theater, all'interno degli Universal Studios, c'era questo grandissimo concerto, un concerto evento tutto esaurito, e poi eravamo praticamente tre bianchi con una platea di Brothers and Sisters per assistere al concerto di D'Angelo Super Band e Mary J. Blige. Ah, ma guarda, qua vedo pure il biglietto, l'hai conservato. Guarda, ce l'ho qui, questo è un feticcio meraviglioso, guarda, c'è scritto qui, si intitolava The Liberation Tour, Mary J. Blige and D'Angelo Gibson Amphitheater. Ecco, questo è da incorniciare proprio. Quanto mi dai per questo biglietto? Ma 50. 50 euro? No, non lo do per 50 euro, non lo posso dare. Ascoltiamo Mary J. Blige, il brano si intitola All Them Year da London Sessions, in distribuzione tra qualche giorno. To the bone, bad to the liver, bad to the bone, bad to the liver, bad to the bone, in a bad body. La voce inimitabile di Mary J. Blige, e si sente qua, è un sound rinnovato, non quello tipico di Mary J. Blige, americano, duro, newyorkese, c'è qualcosa di nuovo, di contemporaneo e di europeo, e infatti l'abbiamo detto, London Sessions si intitola poi così proprio perché Mary J. Blige lo ha realizzato negli studi discografici a Londra utilizzando musicisti inglesi. Ci sono altri concerti da annunciare? Sì, dove ci spostiamo? Abbiamo visto i concerti a Londra. Visto che abbiamo parlato di Mary J. Blige, andiamo in America e vediamo. E vediamo che succede. A New York. Vai, a New York. Sì, dai. James Blake, lunedì 1 dicembre. Hai capito? Questo è un altro inglese che è arrivato in America. Eh sì. Bene. Al Music Hall of Williamsburg, Brooklyn. Sì. Bob Dylan, l'1 e il 2 al The Beacon Ma Theater. Ma ce la fa ancora a cantare Bob Dylan? Sì, magari canta poco. Cioè canta io poco. L'ho visto quando ha fatto un concerto a Cosenza, perché non so se sai, il suo primo manager era originario di Cosenza. Non lo sapevo. È venuto a fare questo concerto gratis allo stadio di Cosenza, però ha suonato veramente pochissimo. E c'era gente? Mezz'ora, 40 minuti. Sì, era pieno. Un concerto intero, per un casino per vedere mezz'ora di concerto. Sì, è arrivato in macchina proprio dentro, fino a sotto il palco, è salito, quasi non ha neanche salutato. Cioè appena, ma ha cantato? Appena salutato, sì, ha cantato, però diciamo che riuscire a scoprire quale canzone stesse facendo, cioè era solo se conoscevi sì, veramente. Perché oramai le melodie non si riconoscono, forse neanche i testi si capiscono. Sì, Like a Rolling Stone l'ho capito solo quando ha detto Like a Rolling Stone. Alla fine. Che l'ho annunciato dopo. Allora, altri concerti a New York. José James, mercoledì 3 e giovedì 4 al Rockwood Music Hall. Tune Yards, il 4, il 5 e il 6 sempre al Music Hall of Williamsburg in Brooklyn. Sharon Jones, The Dap Kings insieme a Charles Bradley, saranno il 4, il 5 e il 6 al The Apollo Theater. Allora, torniamo a Mary J. Blige dal nuovo album London Sessions, in distribuzione fra qualche giorno. Il brano si intitola Therapy e qui mi ricorda, si sente un po' il tocco inglese, no? Perché cosa mi ricorda? Mi ricorda un po' il sound di Laura Mvula di Green Garden. Sì, si sente tantissimo. Anzi, fai una cosa, prendimi il disco nuovo con la Metropole Orchestra di Laura Mvula, che lo suoniamo, così confrontiamo le due sonorità. Vado a prenderlo, dai. Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy. When I can go therapy, when I can go therapy two times a day. Why would I spend the rest of this week so bitter? Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, lo abbiamo detto, il nuovo album di Mary J. Blige intitolato London Sessions recupera in qualche modo nel brano Therapy il suono creato da Laura Mvula per l'album Sing to the Moon, che ha avuto talmente tanto successo lì in Inghilterra che addirittura hanno pensato bene di produrne una seconda versione con tanto di orchestra sinfonica. E infatti abbiamo ascoltato proprio il brano portante, quello più famoso, quello più rappresentativo per Laura Mvula, Green Garden, con l'orchestrazione della Metropole Orchestra. Album spettacolare, vi consiglio di procurarvi una copia di Laura Mvula Metropole Orchestra. Sì, è stato anche registrato in un luogo storico, simbolo, negli studi dei Beatles a Abbey Road. Infatti hai sentito, suona benissimo. Sì. Bene, però adesso dopo le prime produzioni indipendenti, Laura Mvula è diventata una stella di prima grandezza della discografia inglese, è richiestissima un po' da tutte le star anche americane. Ho visto già su YouTube che ha duettato per esempio con Gregory Porter e Speranza Spalding, duetto nel nuovo disco di Jamie Callum. Sì. Insomma, la chiamano tutti, ma se lo merita. È un'astro nascente. Quasi arrivata, diciamo. È quasi arrivata, credo di sì. Si sta levando delle belle soddisfazioni e poi è una musicista completa. Suona il pianoforte e insegna musica. Sì, e questo fa la differenza e si sente. E anche una voce spettacolare. Sì. È anche una bella ragazzetta. Mi hanno detto bassina, sì, però bassina, compressa. Ha la sua personalità. Ha il suo afrore. Ricordati questa parola, c'è il funk dentro. Me la segno subito. Segnatela. Allora, dimmi una cosa, Tromba. Che altri concerti possiamo annunciare? Possiamo andare a Parigi, dove suonerà Jacques Schwarzbart. Paris, quanti bei ricordi a Paris. Jacques Schwarzbart, lunedì 1 alle Duc de Lombard. Bellissimo club. E in quella zona poi sono tutti lì, eh? Sì, tutti attaccati. C'è pure il Sunset, Sunside, sono tutti lì. A zone Parigi. Sì, pieno di localini, si mangia discretamente, si mangiano le cose francesi. Al Sunset, dove hai suonato anche tu, ci sarà Awali insieme a Gabriele Lazzarotti mercoledì 3 dicembre. Sì. Venerdì 5 invece Ibrahim Malouf alle Théâtre Simon Signoret de Confiance Saint-Honorin nei dintorni di Parigi. E questo soltanto per chiedere al tassista di portarti lì. Sì, ci metti casino, un po'. Ci metti un po', prendi la metropolitana, fai prima. Te lo devi proprio scrivere, sì. Il posto. Presenterà anche il suo nuovo album dedicato a Alice in Wonderland. Alice. Senti, mio caro Francesco, io direi di approfittare, visto che il disco è già pronto e posizionato in caldo, di ascoltare un altro brano dal repertorio di Laura Mvula, sempre con la nuova orchestrazione sinfonica per la Metropole Orchestra. Ve lo ricordo, acquistate questo disco, magari lo scaricate legalmente attraverso iTunes. però sostenete la buona musica. Questa è una grandissima produzione, una bellissima idea, un astro nascente, come diceva Francesco, fa venire i brividi, e fa venire i brividi questa composizione, e poi con l'orchestra sinfonica dietro proprio mi si rizzano i peli. Sì, tutti, grandissimo tutti, lavoro. Tutti. Allora, Lauren Vula, il brano si intitola She, qui al soundcheck di Radio 24. She walked toward you with her head down. She wondered if there's a way out of the blue. Who's gonna take her home this time? She knew that this time wouldn't be the last time. Soundcheck, il suono della musica. E questa è una bella sorpresa, si chiamano Moonchild, un trio californiano che fa musica bellissima, bravissimi, preparatissimi questi ragazzi, ovvero Andris Mattson, Amber Navran e Max Brick si chiamano questi tre ragazzi, non ancora famosissimi, però già si stanno facendo conoscere. Per esempio Robert Glasper ha fatto i complimenti, così come glieli ha fatti Jill Scott, e hanno già aperto concerti importanti. Vai a vedere, mio caro Francesco Tromba, Moonchild, chi sono questi ragazzi? Sì, stavo leggendo che hanno aperto i concerti di Stevie Wonder, di Joseph James. Tu hai mai aperto i concerti di Stevie Wonder? No, non sono neanche andato a un concerto di Stevie Wonder. Non l'hai mai visto un concerto di Stevie Finora, Wonder? Finora no. Questo è quasi peccato mortale, lo sai, so che andrai all'inferno per questo. Lo so, però non bene, continua a vedere Moonchild chi sono questi ragazzi, no? Perché qui noi dobbiamo lanciare carne fresca, sonorità contemporanea, mio caro. Sì, si sono incontrati all'Università della California. Bravo. Dal 2000... Dove si sono diplomati in musica? Sì, esatto. Mm. Dal 2011 hanno iniziato a suonare insieme, sì. E poi hanno deciso di scrivere dei brani. E quindi scrivendo e producendo loro i brani insieme, dove li hanno pubblicati? Su Bandcamp. È naturalmente su Bandcamp, no? Poi è arrivato il contrattino discografico e quindi si trovano due pubblicazioni in giro dei Moonchild, però non è facile trovarli neanche via internet. Però basta andare sulla loro pagina di Bandcamp, e si può ascoltare. E i giochi sono fatti. Non vi perdete Moonchild, che con i quali voglio anche chiudere il programma. Guardate, gli voglio dare questa chance. Mi sa che se lo meritano. Se lo meritano, e se lo merita soprattutto la ragazza, perché se vai a vedere nel sito di Amber Navran o Navran, non so qual è l'accento, me lo farò dire, lei fa anche lezioni private via internet, via Skype, di musica, già insegna nei conservatori, già insegna nelle scuole private e fa lezioni via internet, via Skype. Perché non prendi lezioni da lei? Sassofonista, è anche ottima cantante, brava didatta. Volentieri, dai. Lo puoi vedendo fare. Anche le foto. Allora, noi vi salutiamo con Moonchild, il suono nuovo della California. Il brano si intitola Old Joy e vi diamo appuntamento a domani, sempre alle 15:30, sì. Per la prima parte, mio caro Francesco, e poi torniamo per la seconda parte, quella più jazz, dalle 19:15. Devo dirti una cosa, però. Che cosa mi devi dire? Ti ricordi che all'inizio della puntata ti avevo detto che avevo preso un altro lavoro? Sì, che c'entra? Perché domani nella seconda parte non ci sarò, non ci potrò essere. Non fa niente, abbiamo tante settimane da trascorrere insieme, tante puntate, tanta bella musica, mio caro Francesco, non c'è problema, sì, però sei perdonato. Il problema è che questo nuovo lavoro non dura poco, diciamo. Ho capito, dimmela tutta allora. Per un mese circa non ci potrò essere. Ma tu sei pazzo completamente. Ma tu, tu hai segnato con me un patto con il sangue, con il groove. Ci siamo tatuati con la bacchetta della batteria sul braccio, la passione per la musica. Tu mi abbandoni così. Vabbè, ma non è che ti abbandoni. Che lavoro fai? Che mi abbandoni? Che lavoro vai a fare? Devo pagare le bollette. Devi pagare le bollette, che si campa anche senza pagare le bollette. Ma guarda che pagare. Mi sto trasformando in Cruciani pure io. C'ho tanti arretrati. Quindi. Che arretrati? Ma tu devi vivere d'arte, di musica, che lavoro è? Sì, non posso divertirmi sempre come facciamo che qui. Che lavoro è? Non me lo vuoi dire? Che vai a fare? Lavoro in un call center. Guarda, lavori in un? Call center. Ma roba da pazzi, ma guarda che non mi va bene per niente. Ragazzi, noi ci risentiamo domani a partire dalle 15:30 con il soundcheck di Radio 24. Adesso Moonchild con All the Joy, ma per me la gioia è finita, guarda. Possiamo discutere tutto il tempo che vuoi. Hai fatto un erroraccio. Ma ritornerà ma la gioia. Ma ne dovevi parlare prima con i tuoi genitori, raccontare questa cosa. Che devo fare? Vado con Gigi perché c'ho il call center. Ma tu sei pazzo completamente, figlio mio. Whisper in the breeze, long before I took the time to stop and listen. Oh, the feeling that came over me slowly. Sugar sweet, never, never leave me. And I thought it was you soon. I had fallen apart right in front.